Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata soprattutto a coloro che sono in viaggio, visto che alla vigilia di Ferragosto in questo paese succede veramente il top, il massimo, si toccano le punte più elevate di traffico un po' in tutta Italia. Ebbene, così staremo assieme per quasi un'ora, cari gastronauti e non. Ma oggi io vi parlerò di un argomento, anzi di due argomenti, di cui qualcuno probabilmente dirà: bah, probabilmente il gastronauta si è preso un colpo di sole. Ebbene no, perché magari chi mi segue, chi mi ha seguito in questi anni, sa che io quando si avvicina a Ferragosto parlo di un qualcosa di molto particolare. Parlo di panettone d'estate, parlo di panettone di Ferragosto, parlo di festa con il panettone gelato. Ma non solo, oggi avrò anche un'altra grande sorpresa, perché assieme al panettone vi parlerò di un altro prodotto che in una città italiana è, così come posso dire, di pragmatica, è consuetudine, è tradizione mangiarlo a Ferragosto. Non ve lo dico, vi lascio in sospeso, perché veramente quando ne parlerò rimarrete allibiti e vi racconterò anche degli aneddoti molto ma molto divertenti. Ebbene, sono 4 anni che da Radio 24 e dal Sole 24 Ore io batto il tasto del panettone d'estate e lo ripeto, ritengo sia il miglior momento per mangiarlo, soprattutto perché contiene burro il panettone, quindi non c'è bisogno di metterlo sul termosifone. Poi il dolce migliore italiano, perché non mangiarlo tutto l'anno? Con il gelato è un'accoppiata fantastica, io direi anche da spiaggia, sotto l'ombrellone. E sotto l'ombrellone è già successo anni fa a Milano Marittima, e non so se succede anche quest'anno, al Bagno Milano, che ci fosse una grande festa con protagonista il panettone. Ma ora andiamo un po' a scoprire cosa succede in Italia, perché appunto qualcuno mi potrebbe prendere per matto, ma non mi prendono gli oltre 200 pasticceri che in giro per l'Italia producono d'estate il panettone e che quindi sicuramente confortano un po' la mia idea, assieme a tanta quella di radioascoltatori e di lettori che hanno così incitato che io continuassi su questa battaglia. E allora cominciamo da Pavullo nel Frignano, provincia di Modena. Bene, Pavullo, io ricordo, è un paese molto famoso per un ciclista di cui ero anche un grande fan. Buongiorno a Walter Tagliazucchi. Buongiorno, buongiorno Paolini, buongiorno. Capo chef della pasticceria Il Ciamberlano. Esatto. Senta, Tagliazucchi, lei produce il panettone in agosto? Io produco panettone in agosto, luglio, giugno, tutto l'anno. Bene, ma mi dica una cosa, quando lei lo sforna in agosto, non c'è qualcuno che la prende un po' così per uno svitato? Ma sicuramente, anche perché oltre al fatto che poi c'è anche parecchio caldo, quindi non è come sfornarlo in inverno che al limite ti dà un po' di calore e quando c'è freddo. Qui abbiamo tutta un'altra cosa. Poi dopo, da partire da mia moglie, dice: ma tu sei matto, però si è dovuto rendere all'evidenza anche lei. Beh, lei quindi fa parte del nostro, diciamo, gruppo che da anni sta portando avanti questo discorso. Ci sono altri che hanno un po' scoppiazzato queste iniziative così e le fanno giugno queste iniziative, poi presentano dei produttori che a agosto non ci sono più. Volevo sapere, ma chi è il cliente tipo che viene da lei ad agosto? Guardi Paolini, io voglio fare una premessa. Io sono fortunatissimo perché faccio il mestiere più bello del mondo, che è il pasticcere. Il pasticcere, la cosa più difficile che fa è il panettone, è la cosa più buona anche. Quindi il cliente è quello normale, quello che viene tutto l'anno, quello che apprezza le cose buone, appunto. Quindi è sicuramente un cliente abituale che tutto l'anno consuma, certo. Consuma panettoni. Certo, consuma, poi ci sono le varianti, certo. Io metto per esempio le ciliegie di Vignola dentro. Ah, bellissima questa idea, così diventa ancora più fresco invece dell'uvetta, no? Esattamente. Bene, quindi lei fa diversi tipi di panettone proprio con taglio estivo. Allora, io la ringrazio perché appunto lei è uno dei tanti che ormai così produce panettone in agosto. La ringrazio a nome di chi ama il panettone come il sottoscritto tutto l'anno. Lo ricordo, Walter Tagliazucchi, pasticceria Il Ciamberlano di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena. Quindi chi volesse mangiare il panettone d'agosto, magari il giorno di Ferragosto, può andare in questa pasticceria. Bene, continuiamo questo viaggio. Ora andiamo nelle carceri di Padova, che diciamo un posto dove io ho visitato e che ci sono un gruppo di persone che purtroppo devono vivere lì per tutta la vita perché sono degli ergastolani, ma che hanno trovato diciamo questo sfogo, questo bellissimo sfogo nel produrre pasticceria e grande pasticceria. Ebbene, la cooperativa Giotto, di cui Nicola Boscoletto, che è con noi e che saluto, buongiorno Nicola. Buongiorno a te carissimo. E il presidente appunto ci parlerà e dirà che anche a Ferragosto i carcerati del carcere di Padova producono panettone, vero Nicola? È verissimo, tutto è partito con te, dalla tua idea di rendere il panettone fruibile almeno in due momenti all'anno e non solo a Natale. E nel 2008, se ti ricordi, al meeting di Rimini lanciamo alla grande questa iniziativa che ci permise di distribuire 5.000 chili di panettone in quella settimana del meeting di Rimini, e da allora, anche l'anno scorso, abbiamo avuto grossissime richieste, e quest'anno credo che sarà un anno ancora più particolare. Perché è più particolare? Allora, per due motivi: perché il panettone che proporremo a Ferragosto, durante la settimana del meeting di Rimini, sarà il panettone che ha avuto tanto successo, cioè il panettone alla birra. Panettone alla birra che verrà servito con la sua salsina alla birra e la birra tabacchera selezionata per noi dai fratelli Vecchiato di Interbrown, che credo tu conosca. Ecco, quindi per l'estate voi, ma fate anche il panettone normale o solo la birra per l'agosto? Allora, noi se ce lo richiedono facciamo anche quello normale, però noi quello normale lo proponiamo servito con due palline di gelato al prosecco, mentre quello alla birra chiaramente con la sua salsina alla birra e con un calice di birra invece che di uno spumante, di un prosecco, eccetera. Ma la cosa interessante è che oltre che essere dato a tutte le grosse personalità italiane e estere che parteciperanno al meeting di Rimini dal 22 al 28 agosto, alla fiera di Rimini, il prodotto soprattutto sarà presente non solo in Italia ma anche all'estero, perché una catena di gestione alberghiera, la Tivigest Hotel Resort, il giorno di Ferragosto a tutti i clienti in montagna, al mare e anche nei due alberghi che ha in Svizzera, offrirà il panettone alla birra. E quindi parliamo dalla Sardegna, bene, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, all'Isola d'Elba, a Corvara in Alta Badia, la Tuil in Val d'Aosta. E quindi c'è questo matrimonio che aggiunge alle iniziative di questi ultimi due anni anche. Bene, questa... caro Nicola, ma fammi capire un'altra cosa, perché è importante appunto che sia distribuito. Quindi diciamo che la manifestazione sta prendendo piede un po' in tutta Italia, ne sono molto ma molto orgoglioso. Volevo dirti un'altra cosa, ma chi non va in questi alberghi, chi non viene al meeting di Rimini e ha voglia di mangiare il panettone d'agosto, come fa a mangiare il panettone dei carcerati? Non si può presentare al carcere di Padova a suonare e dire scusate, avete un panettone da vendere? No, basta andare direttamente sul sito www.idolcidigiotto.it e lì si trovano tutte le istruzioni, o per acquistarlo direttamente e farselo recapitare direttamente a casa, oppure si trovano dei punti divisi per regione dove è possibile trovare il panettone. Grazie a Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto, appunto, che sono coloro che fanno produrre panettoni e pasticcerie, tutta una pasticceria davvero eccezionale nel carcere di Padova. Bene, e io ricordo anch'io un altro sito importante per chi volesse maggiori informazioni su questa avventura di agosto del panettone, www.gastronauta.it, dove troverete anche tutto l'elenco dei pasticceri in Italia che offrono panettone d'agosto. E ora, visto che che siamo in pieno traffico, in pieno caos appunto di questi giorni, io passo la linea alla regia per sapere cosa succede nelle strade italiane. A fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in giro per l'Italia, cari gastronauti e cari radioascoltatori, in marcia verso magari il posto di vacanza. E penso che sarà oggi veramente un viaggio un po' tortuoso, speriamo che invece le strade siano libere, ma noi cercheremo di allietarvi parlandovi di panettone, della dolcezza del panettone, della squisitezza del panettone. Pensate al panettone col gelato, cosa c'è di meglio d'estate di un dessert panettone e gelato, magari con gelato allo zibibbo, gelato alla frutta, straordinario. Io trovo una combinazione straordinaria. Ma ora andiamo a Cesenatico, andiamo in un posto di mare, andiamo anzi a Borghi di Cesenatico, un po' a pochi chilometri da Cesenatico, andiamo da un pasticcere fornaio. Buongiorno Massimo Vitali. Buongiorno a lei Paolini e a tutti gli ascoltatori. Massimo Vitali è un personaggio che da anni produce, diciamo, il panettone d'agosto, il panettone d'estate, il panettone tutto l'anno. E allora come va Vitali con questa iniziativa? Funziona? Beh, bene, sì, direi di sì. C'è un'ottima risposta da parte di tutti i clienti e degli affezionati poi del panettone, sia, diciamo, di quelli che apprezzano i dolci lievitati un po' tutto l'anno, che anche di quelli un po' più, come potrei dire, un po' più ostici verso il panettone d'estate, perché poi io lo propongo con frutta di stagione che, diciamo, va a calmierare le acque fra e i classicisti e quelli che sono invece gli affezionati dei lievitati, diciamo. Senta, ma chi è il classicista di solito del panettone? Me lo dica, me lo descriva, pensi a qualche suo cliente. Io di clienti, diciamo così, estremisti non ne ho, perché fortunatamente ho riscontrato una grande apertura mentale. Forse quelli più classicisti sono quelli che meno conoscono i prodotti simili al mio, che vengono proposti appunto tutto l'anno, perché chi lo conosce difficilmente poi rimane dell'idea così estremista, oserei dire, del panettone solo d'inverno, insomma solo sotto Natale. Ecco, rimanga con noi Vitali, perché ora andiamo anche ad Altamura. Chi non conosce Altamura, il paese del pane, ma soprattutto quanto pane c'è tipo Altamura e non Altamura in giro per l'Italia. Bene, quindi cari gastronauti, state molto attenti a questa distinzione tra tipo e pane di Altamura, perché quella di rispetto a tipo significa moltissime cose, moltissime differenze. Andiamo da un grande pasticcere, da Dioniso Caputo. Buongiorno Caputo. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Senta, ma ad Altamura d'agosto ci sono molti visitatori? Sì, Altamura agosto c'è la festa padronale, quindi vengono da Milano, vengono insomma tutti a trovare i parenti. E poi c'è una fermata in pasticceria da lei, immagino. Sì, sì, e noi proprio per l'occasione continuiamo comunque a fare il panettone classico. L'unica versione nel periodo, diciamo, fuori da quello che è il periodo stagionale, è quello che comunque lo facciamo senza tante, voglio dire, niente, con una crema d'arancia molto semplice. Poi facciamo anche un'altra versione con le albicocche, quindi il periodo delle albicocche le semicandiamo leggermente e ci facciamo un impasto classico tradizionale, chiaramente con queste goccine belle colorate, e ti dico che è un prodotto che va tantissimo, tra l'altro lo stiamo proprio assaporando in questo momento. Ecco, senta, ma voi fate anche il panettone, lo servite magari anche con il gelato? Sì, soprattutto, e ci faccio una mandorla di fichi, cioè una mandorla tostata e con del miele di fichi. Quindi un impasto, sì, le mandorle, quelle locali del tipo Filippo C, che è una mandorla veramente, diciamo, molto ma molto buona, saporita e soprattutto, diciamo, di gusto. Chiaramente con un miele di fichi, non sono altri dei fichi che vengono ristretti in una fase lavorativa, quindi prende nome miele perché c'ha proprio proprio le caratteristiche di un miele, però c'ha un sapore eccezionale, lo posso assicurare. Senta Caputo, volevo chiederle un'altra cosa, quali sono i dolci estivi che vanno di più ad Altamura nella sua pasticceria oltre a questo? Attualmente c'è un ritorno a quelle che sono le vecchie tradizioni, Quindi si parla, ad esempio, c'è un dolce che è il sospiro senza glassa, che viene addirittura chiamato la le tette delle suore. Che è ho capito. Non se ne ha sentito parlare, però sì. Si sta riprendendo, tanto che la domenica c'è tanta richiesta e venga anche tanta gente da fuori a richiederlo, che poi non è altro che un sospiro classico, che da noi il sospiro non è altro che una montata, voglio dire, di pan di Spagna, piccolino, con una crema chantilly, chiaramente leggermente all'arancio, che quando lo si mangia si sprigiona questa profumazione molto, voglio dire, molto buona, ecco. Senta, Caputo, ma le tette delle suore si chiamano, perché si chiamano così? Perché ci sono versioni molto diverse. Se vogliamo essere un pochettino, si presume che le suore sono intatte, sono integre, sono, e poi voglio dire, si presume, voglio dire, questa cosa, quindi hanno questa forma di tette, quindi le chiamano così, e addirittura c'è qualche signore che si vergogna magari a chiedere, però noi le chiamiamo anche sospiri senza glassa. Ecco. Ma ci sono in alcune parti d'Italia, perché esiste anche altrove, questo dolce che lo fanno con tre capezzoli invece che due, pensi un po', così per dare proprio l'idea di qualcosa. Sentito parlare pure, sì. Bene. Poi non è altro, sacchetto a poche che si fanno queste tre, sì. Bene, grazie Caputo, grazie, la ringrazio e torno un secondo a Vitali per chiedere, ma Vitali, lei il giorno di Ferragosto è aperto? No, il giorno di Ferragosto no, perché non sono proprio, diciamo, in bocca al lupo col mare, perché come ha detto lei giustamente, io sono al punto vendita a Borghi, che è un paesino collinare, diciamo a valle del famosissimo, del più rinomato Soliano sul Rubicone per il formaggio di Fossa. Bene, comunque dopo qualche giorno, il 17-18, è aperto, immagino. Sì. Bene, allora dico ai nostri radioascoltatori della zona che se volessero acquistare il panettone non lo possono acquistare domani, ma lo possono acquistare fra qualche giorno. Grazie anche a Massimo Vitali, appunto di Borghi, di Cesenatico. Continuiamo il nostro viaggio. E ora la chicca. Ora c'è una chicca molto particolare, perché, come ho detto, non solo oggi stiamo parlando alla vigilia di Ferragosto di panettone d'agosto, che è un po' una mia fissazione, ma vi voglio raccontare un aneddoto molto divertente prima di passare al nostro nuovo ospite, ed è questo. Un po' di anni fa ero in vacanza in Sardegna, avevo dei vicini che sono degli amici di Mantova, e io al giorno di Ferragosto, pensando di essere molto originale, e ho tirato fuori i miei panettoni, ne avevo un paio per poter mangiare il panettone magari al mare. Ebbene, questi miei amici di Mantova cosa hanno messo in mostra? Un cotechino. Io ho detto, non è possibile, perché il cotechino è in agosto. E allora ho scoperto che Mantova, e in alcuni punti della provincia di Mantova, il cotechino è il piatto di Ferragosto. E allora abbiamo messo assieme il cotechino e il panettone, quindi addirittura due prodotti sicuramente invernali, diciamo natalizi, e abbiamo cominciato a mangiarli. E alcuni passanti, alcuni lì al mare che hanno visto questa scena, diciamo alla Fantozzi, hanno pensato che fossimo fuori di testa. In realtà eravamo tutti nella tradizione. Quindi ora andiamo a scoprire anche la tradizione non solo del panettone, che se vogliamo è stata inventata dal sottoscritto, grazie appunto anche a Radio 24 e al Sole 24 Ore, ma andiamo a scoprire il cotechino. E andiamo dove? A Mantova. Andiamo all'Osteria dell'Oca di Mantova, andiamo da Guido Giulio Ghidetti. Buongiorno Ghidetti. Buongiorno. Allora Ghidetti, ci racconta questa storia del cotechino, ma è vera? Ma è certo che è vera, è documentata, quindi è vera. Niente, quello che succede, ma questo fatto qua succede ancora adesso. Ogni anno, il 15 di agosto, c'è la festa della Madonna delle Grazie, e già dal 500 i Gonzaga lì facevano una grossa mostra di cavalli, perché i Gonzaga erano i più grossi allevatori di cavalli al mondo, per il mondo che si conosceva allora. E quindi si riunivano lì in un paesino di 500 abitanti centinaia di migliaia di persone. I Gonzaga non sapevano come sfamarli, tutti questi gente che veniva a trattare gli animali, di modo che non c'era nient'altro da fare che fare l'insaccato, che si conservava salato, eccetera. Poi tutti sanno che a Mantova è la provincia più numerosa di maiali. e questi facevano l'insaccato e allora non si chiamava cotechino, si chiamava insaccato. E poi quando venivano tutta sta gente a peregrinare a Mantova, succedeva che gli davano questi insaccati cotti. Senta, questa è la verità sull'insaccato, poi di insaccati ce ne sono sì, tanti, certo. Ma poi va andata a finire che venne chiamato cotechino, questo non è registrato come fatto mantovano, non lo so, però la verità è che a Mantova succedeva questo. Senta, ma appunto nel giorno di Ferragosto nelle famiglie mantovane, quelle tradizionali, Guardi, la tradizione, perché la faccenda del cotechino mantovano, come del cotechino in tutti i posti, si facevano solamente a loro una volta all'anno, quando uccidevano il maiale facevano i cotechini, salvavano una parte di cotechini che poi venivano cotti durante l'estate, addirittura quando si mieteva il grano, per dire, e naturalmente si usava anche la lingua salmistrata per fare il salame di lingua e quindi veniva cotto. Ecco, questo succedeva nelle famiglie mantovane come nelle famiglie dappertutto. La tradizione vuole che questa gente qua che dal 500 veniva per il 15 di agosto alle Grazie ha continuato imperterrita tutto oggi e quindi vanno alle Grazie e vanno, chi una volta andavano in bicicletta a prendere il cotechino lo mangiavano a casa, ma adesso si riversano un sacco di gente. Io poi l'ho fatto perché lì ho fatto il record del mondo del cotechino più lungo e sono stato sul Guinness dei primati per 12 anni. Senta, ma quanto è lungo questo cotechino? L'ultimo che ho fatto era 164 metri. Ah, però non... E chi se l'è mangiato? Ah, se l'ha mangiato tutti, perché quando no, poi... Non resta più niente? Niente, niente, niente. Senta, niente. Ma c'è qualche condimento? No, nessun condimento. Cioè, quello che si dice è che il cotechino si è sempre mangiato coi fagioli, e d'altronde era l'accompagnamento più pratico che c'era una volta, perché c'era il stagione dei fagioli e quindi andava bene così. E poi dopo hanno inventato i crauti, hanno inventato il purè e tutte quelle balle lì. E questo appesantisce il cotechino. Io, memore di tutta sta bella roba, ho continuato nella mia osteria a cuocere tutti i giorni il cotechino. Quindi 365 giorni all'anno? 365 giorni all'anno, e le posso dire, e lo può verificare, che tutti i giorni viene gente a mangiare il cotechino. Bene, io la ringrazio Ghidetti, grazie, perché lei così ci ha dato veramente una delucidazione su tutto questo. Ma poi andremo anche alla Curtatone, andiamo alla Locanda delle Grazie, che continueremo questo discorso col cotechino. Bene, ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cotechino e di panettone in agosto. Forse la gente veramente penserà a questo punto, magari chi si mette in ascolto ora, cos'è successo al gastronauta, è andato fuori di testa con questo caldo. No, non è proprio così, l'abbiamo cercato di spiegare, ma lo rispieghiamo ancora. E in agosto noi pensiamo che il panettone sia, come posso dire, il dessert giusto da abbinare con il gelato. Io ritengo che il panettone debba essere prodotto tutto l'anno, debba essere mangiato tutto l'anno, e anche in estate sicuramente col gelato ha così una simbiosi davvero, davvero straordinaria. E poi ci sono tantissimi fans del panettone, mi arrivano continuamente durante l'anno le lettere che mi incitano ad andare avanti su questa mia battaglia, così pure da molte pasticcerie che vedo crescere ogni anno il numero di coloro che sono aperti, che sono pronti appunto ad offrire il panettone. Ebbene, abbiamo parlato anche di cotechino. Questa è la grande novità di quest'anno. La novità di quest'anno, perché, come ho già detto, ho scoperto questa tradizione con amici mantovani, io non la conoscevo, con i quali abbiamo scambiato a Ferragosto di un paio d'anni fa un panettone con un cotechino, e quindi abbiamo scambiato un pranzo natalizio, forse, come qualcuno ha commentato. Però cioè, la tradizione del panettone che io così sto lanciando, che ho cercato di portare avanti, è completamente inventata, è una tradizione inventata, così come ce ne sono tante comunque, mentre quella del cotechino, come abbiamo già cominciato ad ascoltare, ha delle origini storiche, ha una bellissima leggenda. E ora continuiamo a parlare del cotechino. Andiamo alla Locanda delle Grazie, che è una nota trattoria di Curtatone, in provincia di Mantova. Buongiorno a Fernando Aldighieri. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Senta, voi a Ferragosto siete aperti? Siamo aperti, apertissimi, c'è una grande fiera, lo sai. Appunto, è questo, perché migliaia di migliaia di persone. Perché il fulcro non è Mantova, è Curtatone, vero? Sì, è proprio davanti il piazzale Santuario, questo famoso santuario mariano che celebra l'assunta proprio del 15 di agosto, che i Gonzaga hanno fatto ereggere perché Mantova è stata un po' salvata dalla peste, e allora, come ringraziamento e risvolto, hanno eretto questo magnifico santuario. Ecco, ma poi il cotechino com'è arrivato? Il cotechino è arrivato che venivano lì, era un grande mercato di animali, specialmente cavalli, e la gente aveva anche fame. Allora le famiglie si prestavano, come adesso il bed and breakfast, insomma, gli davano un ristoro, un punto di un panino, una fetta di cotechino coi fagioli, altro non avevano nell'orto, e dopo sono venute le verde, il purè, come diceva il grande Baffo, insomma, ecco. Perché Baffo è un po' uno storico riconosciuto, no? Il Baffo sì. È stato grande per la cucina mantovana, il Baffo. Come Giampaolo Cangi, il povero Giampaolo Cangi, come Franco Cara, sono personaggi che hanno dato molto lustro a Mantova, specialmente all'estero. Ecco, ma questo Guinness dei primati del cotechino è importante, mi sembra. Insomma, è ancora tutt'oggi nel libro dei Guinness. Il Baffo è un anfitrione speciale. Insomma. Ecco, per chi non lo sapesse, il Baffo è Guido Giulio Ghidetti, dell'osteria dell'Oca di Mantova, insomma, quello infatti, che prima ci ha raccontato appunto l'origine del cotechino. Ma io volevo chiedere a lei, dunque, il giorno di, appunto, cosa servite il giorno di Ferragosto? Domani, cioè, cosa servite domani? Ferragosto, guarda, tu puoi preparare quintali, tonnellate di cosa che puntualmente rimane senza. Ho capito. È indescrivibile a dirlo, perché fa conto, un borgo di 500 abitanti si riversano 200.000 persone. È incredibile. È incredibile. Infatti si aprono paninoteche volanti, gazebi, strutture, anche perché dopo è diventato un supporto per gli enti locali, perché tutti aiutano a sfamare sta gente, a dare sto cotechino alla gente, e poi il ricavato va a sostegno delle squadre calcistiche, i bambini dei primi calci, anziché la spada, anziché il pallavolo, è diventata una cosa di sostegno per la popolazione, insomma, per il paese intorno. Senta, lei come lo serve il cotechino? Io alle verze agre, perché mi sgrassa proprio quello che è il cotechino, con le verze cotte con l'aceto, mi pulisce la bocca, insomma, ecco. Mi dica la verità. Sono amante delle lenticchie, del purè, insomma, di tutto, dei fagioli. I fagioli perché sono nati quei fagioli, perché non c'era nient'altro, insomma, nell'orto. Di buon mercato, ecco. Senta Fernando, ma fa più gusto servirlo sotto Natale oppure il giorno di Ferragosto? Com'è? Io lo faccio tutti i giorni. Ah, tutti i giorni anche lei, quindi 365 sì. Giorni il cotechino. Mi viene alla Locanda delle Grazie e trova il cotechino tutti i giorni. Senti, ma se lo produce direttamente o ha un produttore suo particolare? No, perché ha un produttore che abbiamo costruito una ricetta, e quella tutto il tempo dell'anno, anzi lui ha un negozio, vende pure questo prodotto, lo vende anche nel suo negozio. Però è una garanzia che è uguale sempre. Con cosa lo abbiniamo di vino d'estate? Non c'è pezza, il lambrusco lo fa da padrone. Quindi un lambrusco un po' servito un po' più fresco che d'inverno, immagino. Beh, certo, il lambrusco è, a parte insomma, il vino che è un prodotto dell'annata, che si beve nell'annata, ma fresco anche d'estate. Fresco non vuol dire freddo da ghiaccio, però una cantina fredda si beve sempre volentieri, perché è un vino abbastanza leggero, insomma, non è un vino ordini di importanza dove è impegnativo, Beverino. Senta, un'altra cosa volevo chiederci, da qualche altro piatto che serve appunto in questo periodo caldo, piatti ad esempio? I primi piatti sono i maccheroni con lo stracotto, che vanno per le tagliatelle con l'anitra, l'anitra selvatica, che i nostri parchi sono abbondanti, e il risotto alla pilota. Ecco, perché... spiega ai nostri radioascoltatori cos'è il risotto alla pilota. Il risotto alla pilota viene creato dal pilarino, l'uomo che lavora nella pila del riso. E questo ha creato una particolare cottura, non è un riso mantecato, menato. È un riso che viene cotto da solo nell'acqua e fatto asciugare, assorbire. La cottura è di 25 minuti. E a parte, 25 minuti da quando si butta nell'acqua bollente, poi si mescola, un fuoco veloce per 7 minuti, poi si spegne, si copre con un canovaccio di cotone, il coperchio, e lui assorbe tutta l'acqua, proprio la assorbe il chicco assorbe l'acqua e rimane asciutto, il riso sgranato. A parte si cuoce con una noce di burro e un paio di cucchiai d'acqua. La salsiccia, che è una che da noi, che usandone tanta, la troviamo nei negozi oppure dal nostro macellaio, la carne fresca, non insaccata, però è la stessa che va insaccata per fare la salamella, il salame, cioè carne magra, carne di pancetta, un trito d'aglio, sale e pepe. Bene, mi fa venire fame, basta, la lascio. La lascio, Fernando, della Locanda delle Grazie di Curtatone, provincia di Mantova. Buon Ferragosto e buon Cotechino, buona festa, a presto. Bene, continuiamo, torniamo al panettone, ma torniamo dai panettone a un panettone molto particolare, perché torniamo a un panettone alla birra. Visto che abbiamo parlato di Cotechino, beh, sentiamo da Osiride Chiaradia di Zago, che è un produttore di birre artigianali, cosa ci dice, cosa potremmo abbinare a un Cotechino, Osiride? Beh, io direi un'ottima Aikuvè, una nostra birra. Non si fa così però, subito con le birre di casa, insomma. Però una birra ci sta bene col Cotechino, perché pulisce e sgrassa, no? Molto, infatti, perché arriva proprio a sgrassare quella parte che poi invece appunto altrimenti dovrebbe essere retta da un buon vino rosso. Ecco, Osiride appunto è una delle fans del panettone d'agosto, il panettone tutto l'anno, e la sua azienda produce panettone alla birra. Ce ne vuol parlare, Osiride? Sì, l'idea di creare un panettone per tutto l'anno nasce da un nostro progetto, quello di poter associare questo panettone che noi facciamo con la birra ai cuvée, e per creare dei nuovi piatti a seconda poi dei periodi dell'anno, quindi soprattutto in queste calde giornate d'agosto noi lo proponiamo con un gelato o fatto sempre appunto con la birra ai cuvée per i gourmet, oppure anche semplicemente, se qualcuno l'ha a casa, consigliamo di grigliare questo panettone all'ai cuvée, quindi rendendolo molto caldo, e con sopra una pallina o di gelato al fior di latte o anche alla crema. Ovviamente il vantaggio di mangiare comunque il panettone d'estate è quello che non serve riscaldarlo direttamente in forno, ma è già a temperatura ambiente, quindi si riesce poi ad assaporare meglio anche tutte le componenti poi aromatiche del panettone stesso. Noi il nostro panettone lo proponiamo ovviamente in bevuta con una fresca ai cuvée, ma ci possono essere tantissime varianti per utilizzarlo in questo periodo, quindi non solo con il gelato, ma anche può essere utilizzato come pane dolce, avendo molto uvetta, con una selezione di formaggi, quindi ad esempio con dei gorgonzola di varie appunto stagionature, o anche in alternativa, come avete detto voi, con dei salumi affumicati. Sì. Bene, volevo chiederti un'altra cosa, ma c'è molta richiesta in questo periodo di panettone alla birra? Ma sinceramente il progetto nasce proprio dalla richiesta dei nostri clienti, perché più di qualcuno ci chiamava anche a febbraio, a marzo, poi adesso sta continuando a farlo e dice: ma è possibile averlo anche se non è Natale? E da lì abbiamo capito che alla fine il panettone non è più visto come il classico dolce solo natalizio, ma in realtà piace agli italiani, che non lo utilizzano solo per la colazione ma anche proprio come dolce nel completamento del pasto. E quindi siamo partiti, abbiamo deciso di portare avanti tutto l'anno, ci stiamo anche poi collegando con un sacco di amici chef e ristoratori, tra cui ad esempio Palmiro Bruschi della gelateria di San Sepolcro, che sta ideando delle ricette fresche per questi giorni da abbinare al panettone. Bene. Bene, quindi col gelato. Grazie Osiride Chiaradia di Zago, birrerie e in questo momento anche panettone alla birra. Bene, mi prenderanno per un dissacratore di tradizioni, chissà, sarò messo alla gogna, non ha importanza. Io sono goloso e tutta questa storia me la sono inventata perché volevo mangiare il panettone tutto l'anno ed estate. Questa è la verità, ma ora passo la linea alla regia. Torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Siete sorpresi, cari gastronauti, in viaggio, in marcia verso il giorno di Ferragosto, che si parli di panettone, ma soprattutto anche di cotechino. Chi l'avrebbe mai pensato che esiste questa tradizione del cotechino a Ferragosto? Bene, i mantovani hanno questa tradizione e vi assicuro che è molto sentita anche all'interno delle famiglie. Chi addirittura va in vacanza, molti mantovani, io li ho visti, si portano queste provviste appunto di cotechino per festeggiare alla loro maniera il Ferragosto. Bene, sicuramente bisogna rispettare la tradizione, come anche qualche volta allargare le tradizioni come quelle del panettone, di non mangiarlo solamente due giorni all'anno e poi magari vedere quella, diciamo, quegli spettacoli osceni di compri, paghi due, compri tre di panettoni prodotti a giugno che ancora a marzo sono in giro pieni di conservanti. Allora io preferisco invece che ci sia del panettone fresco magari anche ad agosto e di poterlo mangiare ad agosto. Bene, ora andiamo al sud perché la verità è che il sud sta veramente emergendo moltissimi pasticceri con la produzione di panettone e di altri prodotti lievitati, quindi diciamo che benvenuti anche appunto i pasticceri del sud che sono entrati nel mercato del panettone artigianale. Bene, io ne ho con noi uno, poi ne avrò anche altri. Abbiamo Emanuele Lenti. Buongiorno Lenti. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lenti da Grottaglie, provincia di Taranto. Ebbene, sì. Emanuele, allora funziona sempre il panettone d'estate? Come no, anzi, devo dare atto che l'idea che hai lanciato tu, mi sembra che è il terzo anno questo. Sì, quarto anno. Quarto anno. Sì. Si sta diffondendo e la stanno un po' ricevendo, insomma è partita. Bene, io volevo chiederti se ci sono difficoltà nella produzione d'estate, non lo so perché molte volte le limite... Diciamo che le difficoltà, almeno soprattutto qui giù da noi, nel mio laboratorio, che è un laboratorio anche di panificazione, ci sono giornate che superano i 40 gradi e abbiamo un po' di difficoltà, comunque regoliamo un po' con le temperature degli ingredienti. Ecco, ma io sono convinto, e vorrei da te una smentita oppure una conferma, che siccome nel panettone, vabbè, ci sono molti che usano ormai l'olio d'oliva extravergine, ma viene utilizzato il burro, cioè d'estate il panettone non c'è bisogno di metterlo sul termosifone, che secondo me si rovina perché asciuga. No, ma io non lo metto nemmeno nel termosifone. Nemmeno d'inverno. Io faccio un'emulsione nell'impastatrice. No, io non sto parlando della produzione, sto parlando del consumatore. Il consumatore di solito quando se lo porta a casa, purtroppo d'inverno, magari quando fa freddo, cosa deve fare per renderlo meno duro? Deve metterlo sul termosifone oppure riscaldarlo. Invece d'estate non ce n'è bisogno. No, non ce n'è bisogno, assolutamente, anche perché abbiamo già il nostro caldo, bel caldo. Specialmente al sud, però ora Milano quest'anno secondo me non è che sia molto diverso dal sud. Sì, no, me l'ho saputo, me l'hanno detto. Ha raggiunto delle vette. Comunque hai detto altre sagge parole che hai detto, il fatto che il panettone non viene prodotto a giugno per consumarlo a marzo. Noi abbiamo quella fortuna di proporlo periodicamente, quindi freschissimo. Bene, certo. Quindi è un vantaggio, credo, no? Sì, ma chi è che chiede il panettone fuori Natale? Ci sono degli appassionati anche da voi, immagino. Certo, anche perché da quest'anno poi abbiamo tirato fuori alternative al panettone, altri gusti, quindi diciamo che chi è un po' tassativo e un po' conservatore vuol mangiarlo solo a Natale, noi diamo un lievitato diverso che sia, che non è il panettone con i canditi, bensì un lievitato con altri ingredienti. Ecco, e come lo vedi accostato al gelato? No, noi non lo facciamo. No, dico però servito da chi? Sì, allora, io l'anno scorso, proprio nell'occasione del panettone a Ferragosto, un mio amico chef, che andammo un po' a pranzare di Ferragosto, ci preparò con del gelato, che adesso non ricordo, però lo accompagnò la festa del panettone, con marmellata di ciliegia Ferrovia. Ah, ecco, sì, sono quelle ciliegie particolari, sì. Ma abbiamo già sentito prima nel nostro giro dell'Italia che c'è un pasticcere a Borghi di Cesenatico che invece di mettere le uvette mette ciliegie per l'estate. Quindi sicuramente è un accostamento niente male. Rimani con noi, Emanuele. Ora andiamo a Sant'Egidio Monte Albino da un altro grande pasticcere. Andiamo alla pasticceria Pepe, ad Alfonso Pepe. Buongiorno Pepe. Buongiorno a lei. Allora, si mangia da lei il panettone durante l'estate? Allora, da noi diciamo che abbiamo iniziato quest'anno a farlo anche periodicamente fuori stagione, sarebbe il periodo natalizio. Abbiamo provato a giugno e ne abbiamo fatte una bella quantità, sono finiti tutti. Adesso ci stiamo riprovando di farlo sia ad agosto che anche durante altri periodi dell'anno. Bene, sono contento perché io credo fermamente su questa cosa, perché il panettone, ecco, lei è del sud e così pure l'amico Lenti, io credo che il panettone sia un dolce nazionale, perché sicuramente ormai è prodotto in tutte le regioni ed è giusto che così si allarghi la produzione un po' a tutti, perché anche io credo che sia anche un prodotto principe della pasticceria. Non so lei cosa ne pensa. Veramente fatto un buon panettone, un buon lievitato, è una cosa che non si può descrivere, bisogna solo gustarlo. E poi nel periodo estivo, sentivo lei quando intervistava il collega, sì. Non c'è bisogno di metterlo vicino al caldo, perché già con le temperature che abbiamo il prodotto è fresco più a lungo, mentre invece il periodo invernale, sembra, dato il freddo, sembra più vecchio, invece no, perché il freddo lo fa invecchiare presto, però basta metterlo al caldo, comunque è ottimo. Sì, infatti anch'io sono d'accordo su questo, io ho provato e devo dire che lo gusto molto di più quando fa più caldo, perché ovviamente si scioglie più naturalmente il burro. Volevo chiederle, lei così, ma diciamo come consumatore, come degustatore, non come pasticcere, lo ha provato con i gelati, con vari tipi di gelato da affiancarlo durante l'estate? Sì, abbiamo provato a farlo col gelato, anche caldo, facendo due fette di panettone, messi il gelato a 100 e messi in congelatore, poi una botta di calore forte, tipo un tostapane, e si scalda il panettone e all'interno rimane il gelato. Noi abbiamo una macchinetta che fa le brioche così. Abbiamo fatto il panettone caldo fuori con il gelato freddo dentro. Bene, interessante questa cosa, questa è una grande novità, vedo che si sta allargando appunto l'offerta estiva. Bene, devo dire che a proposito di surgelatore, io il primo anno quando ho cominciato a lanciare quest'idea è emerso che mi hanno scritto moltissimi radioascoltatori e mi dicevano che compravano il panettone d'inverno, se lo tagliavano a fette, se lo mettevano sulla carta argentata e lo mettevano nel freezer per poi mangiarselo ad agosto. Ora non c'è più bisogno, perché come vedo appunto si sta allargando un po' la mappa in tutta Italia e quindi credo che ormai non ci sia più bisogno di recuperarlo e surgelarlo, ma andarlo ad acquistare, perché come abbiamo visto da questo giro in Italia ormai sono tante le pasticcerie. Io purtroppo quest'anno non posso chiamarle tutte, perché ogni anno cerco anche di chiamare in altre zone d'Italia, però sono veramente tantissime. Io lo ricordo, chi volesse segnalare le pasticcerie che sono aperte e producono panettoni in agosto, oppure chi volesse avere informazioni, www.gastronauta.it, facciamo un punto di raccolta e continuiamo a dare informazioni al consumatore. Bene, io saluto Emanuele Lenti, ti ringrazio e a presto Lenti. Quindi, lo ripeto, vuoi ripetere tu dove sei, perché così immediatamente diamo l'indicazione del tuo posto? A Groccaglie, provincia di Taranto. Bene, Alfonso Pepe a Sant'Egidio Monte Albino. lei ha aperto, quindi ha aperto Pepe, ha aperto Lenti, grazie a tutte e due. Ora continuiamo, ora chiudiamo questa trasmissione. Abbiamo sentito di questa festa importante che è a Curtatone, in provincia di Mantova, che ha come emblema il cotechino d'agosto, di Ferragosto. Io ora però voglio anche parlare e far parlare della festa del panettone, perché esiste un panettone day d'agosto di cui più modestamente sono l'ispiratore, e abbiamo con noi invece colui che l'ha portato avanti, un po' l'ideatore. Buongiorno Francesco Cortese. Buongiorno. Cortese, lo ripetiamo anche quest'anno? Assolutamente. Allora, ci dai quest'anno un po'... siamo il 27° anno. Ci dai un po' di indicazioni? Allora, il panettone party si svolge il giorno di Ferragosto a Borbona, che è un paesino in provincia di Rieti, esattamente a mezzogiorno, al centro del paese, dove c'è il punto di ritrovo. In questi ultimi 5-6 anni abbiamo coniugato il panettone party con il punto vendita del giornalino locale, e a mezzogiorno dal 1983 regolarmente si mangia il panettone il giorno di Ferragosto. Ecco, ci dici come... completamente gratuito, la distribuzione è completamente gratuita, non c'è nessuna iscrizione, non c'è niente, viene distribuito gratuitamente a tutte le persone che passano. Ecco, però allora dacci l'indicazione di come arrivare in allora, questo comune. Da Roma si fa l'autostrada, si esce a Fiano Romano e si prende la Salaria. Si percorre tutta la Salaria, si supera Rieti, si supera Antrodoco, 13 chilometri dopo Antrodoco c'è il bivio sulla destra per Borbona. Sono 4 chilometri e si arriva. In quel giorno c'è anche la festa, proprio la festa, con una grande fiera, dove si vendono prodotti tipici ed altri prodotti tipici di queste fiere di paese. E al centro proprio, a mezzogiorno, noi distribuiamo il panettone e facciamo il panettone party, che era nato così, come, visto che siamo su Radio 24, come ossimoro gastronomico, perché ci sembrava strano il panettone a Ferragosto, un dolce tipico invernale natalizio il giorno di Ferragosto, però devo dire che riscuote un grandissimo, grandissimo successo. Bene, allora noi daremo sul sito www.gastronauta.it tutte le indicazioni di questo panettone party, e daremo anche tutte le altre indicazioni, appunto, pasticceri che volete far sapere che siete aperti e producete panettone anche in agosto, e così pure consumatori, clienti, buon gustai che volete assaggiarlo, collegatevi e avrete tutte le informazioni. Io ringrazio Francesco Cortese, perché ogni anno è la punta avanzata di tutto questo movimento, e vi do appuntamento domani per il riposo del guerriero e poi per la replica di questa trasmissione, che la volesse risentire questa notte, sempre ovviamente su Radio 24, e vi auguro a tutti per domani buon Ferragosto con il panettone day, sicuramente, ovviamente mangiando panettone e pure cotechino.